senso Lillo. Che? Ui, Kawasaki. Ui, per me. Tutto a posto, dottore? Eia, tutto a posto, niente ordine. Cosa è successo? Ah, niente, ho finito l'elettropacco che dovevo finire, uscire per due ore e mezzo. E ha agito, vedi là, hai detto, prima tre due ruoli di cazzo di albo, e vabbè. Quando si tratta di ricchezzi, fate le lezioni mancanti. Ma non lo so, mi avviso che io oggi finivo. Non è che sono da mettere i cappuccini. E vabbè. Già me ne non c'è problema, la persona è abbastanza tranquilla, dai. Eh beh, è una vita di buca, lo adesso mi attacchiamo, sai, le frecce di nuovo che ha messo, e ci faceva tutto, le deviate, le luci, le frecce, tutto, tutto l'altro, ho stato, perché avevi dubbi, ma ho detto no, ti conosco già, ma dove ho attaccato sopra, quindi, va che poi gli attacco Federica, gliela ho detto, sono tutto ricchiato che non si lo avevo fatto. Ah, vabbè, e beh, invece tu hai fatto pizza, che fine ha fatto? Se la fa la parete. Che la più fine, a me lo dico. Io sono a casa mia, Tori. A me quello che fanno, che non fanno, non mi interessa un accidente. Andata bene, veda. Comunque, figlio, quanti era di nuovo? Quando l'ho rimessa? Ah, sai che stava saldando, disaldando dove c'è il piede dell'antenna proprio, all'interno. Il piede del rame che c'è, grosso, che era saldato all'interno. Si stava distaccando. Come l'ho preso? Ho pulito tutto quanto, mi teneva in mano. L'ho risaldato, bene, come Dio comanda. Adesso è un po'. No, deve essere troppo amplificato, sì. Però già sto facendo bene. Lo so peccato. Perché si sente la televisione, cosa vuoi attesa? La TV, aspetta un secondo che cerco di no, prima sentivo troppo sotto il fondo di televisione. Come, facciamo male i piedi oppure stare sulla scala in ferro. Comunque su, ci arriva tutto l'attrezzatura mia, perché devo andare di nuovo a lunedì, così mi piace pure il cash. Mi ritiro tutta l'attrezzatura, la scala. E via. A proposito, cos'è che posso andare l'ottone? Cosa ci vuole per saldare l'ottone? Non so cosa ci vuole per saldare l'ottone. Mi ne chiudi, non va bene quella cosa. No, il cazzo. Trovare un sistema per saldare questo cavolo di coso. Ma lì me l'ha regalato il campione, ma se niente mi va bene. Ma bella mi grafica. Cosa era? Era tutte quelle lampade che si mettono in casa all'angolo. Cazzo, ma enorme, bello però è. Poi tutto quanto i notoni ricavato, il tubo è già più bello. E la cabocchia di sopra che va avvitata, il pezzo di cui io rotondo è rotto. Vuole o saldato oppure incollato, una cosa speciale però, che tiene, non è molto pesante, ma insomma. Dove sta andando? Da qualche restauratore per vedere. Da qualche restauratore? Restauratore di che cosa? Ah? Restauratore di che cosa? Dei mobili che sistemano anche queste lampade qua. Di mobili proprio, non fa parte del mobile, fa parte dell'arredamento, ok, proprio, o i lampadari semmai, chi vede lampadari? Ma sai, un voto di artigianato in giro. No, adesso sono a te lui, c'è la campana che va sopra, grande cazzo, mi farà. Cazzo, bella gigante, mi tocca, cazzo, cosa, bello, ce l'ho ricamato, fare roba di arabo, cazzo, ma che trovo. Sono quelli vintage. E quel quadro grande, buttato ce l'hai. E qual è questo quadro grande? Quello che c'ho in terrazzo, a parte ce l'hai. In terrazzo? Da quel sfondo di mare, il mare è cosa, c'è il mare, la pappa piegata, quello lì. Dove c'è la cazzo, dove mettevi la moto prima? Dove mettevo la moto prima? Qua in campagna? Cazzo, dove sei? Sei che nei corpi, eh? Cazzo, dove c'avevi il coso, il gabbiotto, di tutti gli attrezzi, la veranda che ti hanno fatto? Lì non c'è un cavolo, cosa c'avevi lì? Io ho capito, ce l'ho ancora il gabbiotto. Buongiorno, cioè, buonasera, chi ha salutato, chi è entrato e ha toccato, chi è Claudio? Io, ma non sento con chi stai parlando, Tony. Emanuele, Cicco. Cazzo, non mi arriva qua, porca miseria. C'ha l'antenino piccolino, poi in primo piano, e dello stendino l'ha messo, capito? Dove stai la roba? No, riprendi tu, Tony, che mi ha salutato. Ma lui mi sente a me. Scappa, ma lui lo senti tu a Claudio, sì? Sì, a Tony, a Claudio, sì, salutano. Dai, riprendete voi che me la sento un attimo. Ehi, già ti siete anche forte. Ecco, riprendete voi perché dice si sta sentando un attimino. Riprendi qua. Ehi, ehi, ciao Manuel. Sono di balle, queste antenne. Vabbè. Non ti accoppio, non ti accoppio. Allora, che ci dice? E niente, ho finito oggi, ho preso in mezzo un tabacco, quindi adesso lui di vado a i soldini. E tutta la trattatura che c'ho anche la scala mia. Ah, l'hai finito completamente? Sì, sì. C'ho, è un appartamento di 4 camere, cucina, bagno, dopo i servizi. E poi ho messo anche il campanello, fili nuovi, tutto entrato, tutto a foto, i fili che c'erano prima, se vedevi là, perché avete le mani in testa, quei fili antichi semipiombati, vabbè che il palazzo c'ha 50 anni, però dove è situato, e anche l'hanno rifatto, aggiustato, è nuovo, è bellissimo il palazzo, quella via sono tutti 5 piani, a luna sole. Sì, per quella zona è bella, impianti vecchi impianti vecchi, e anche noi quando avevamo ristrutturato la casa di mamma a Porto Torres, l'impianto elettrico è stato fatto tutto nuovo, tutto, ma mamma ci aveva pezzi ancora di piattina fatti un bronto. Sì, adesso vecchi proprio. Niente, mentre stiamo lavorando in questi giorni lì si è affacciata quella signora a fianco, anziana, beh, non molto anziana, forse la mamma era più anziana. E mi ha detto, sì, mi sa che me lo fa anche a casa mia l'impianto, signora, mi sembra vero, mi guarda, lo dica Marco, e lui ha il mio numero di telefono, non c'è problema. Quindi, lì ho salito un po' il prezzo e Marco mi ha capito e mi ha detto, no, quello che ha preso a me non ti preoccupare, a lei mi fai molto di più. Niente, poi il problema è questo, io ho messo tutta la massa nuova, però lui la massa nel palazzo non gliel'ho vista, dice c'è per forza, ecco dove, anche da Federica, che ho fatto tutto il piatto nuovo, la massa non ce l'aveva il palazzo, perciò se ho messo un picchetto. E poi lui vuole cambiarsi tutta la dorsale dal contatore giù al quinto piano, però non si sa dove cavolo arriva il cavo. È un casino, perché dove c'è il solito differenziale, il cavo che va a finire al contatore li parte all'interno del muro dove c'è il solito in giù. Cioè, non è che viene da sopra e arriva fuori, ogni piano c'è una certa derivazione, apre, c'è il cavo e arriva più giù. No, è tutto diverso, infatti ho detto, fate capire dire dal capo condomina se dove passano i cavi, lui ce lo sapeva, boh. Insomma, un casino. E poi devo lavorare a parte, sono 30 metri di cavo devo passare. Non fare quel lavoro non è facile, no? Se non serve mettere le mani, agganciare quelli vecchi, tirare, fare. Se poi sono dentro il corrugato, è una rottura di balle. Vabbè. Comunque, si è già fatto in linea di massima, continuerai pure a fare le altre cose. Sì. Niente, però ho provato, ho tirato sul solito differenziale, ho messo nuovo, le due linee separate, l'ho fatto, da 16-10 ampere, è tutto funzionante, sia le due deviate che l'ho fatto, accendi e spegni, prese, tutto. Abbiamo fatto addirittura una dorsale da salvavita da 4 al cavo, pensa, è tutto quanto la casa. E poi da ogni scatola di azione che levava il cavo da 4, scendeva da 2,5 per le prese, e 1,5 per gli interruttori. se te l'hanno fatto fare vuol dire che sono contenti e uscire. Vabbè. E il resto si tira a campà. E il resto, claro, adesso come fa? Quindi quando ti fermi che è finito, ormai è un po' scoglionato, cosa vuoi sarà? Allora cerchi sempre di essere attivo, cercare altro lavoro. E ci lunedì provo a chiamare la signora, vediamo un po'. Insomma, a me stare fermo, claro, ancora io mi sento giovane, per l'età che c'ho, guarda, io mi sento troppo giovane, non lo so, ancora le mie forze ce l'ho e ne devo approfittare a fare, anche se mi fermo, so voi anche, qua che l'età è, come mio fratello e mio zio, Mario Barbariccia, se te lo ricordi, si è fermato dopo la pensione, ma che l'età ce lo vede che sono scimato da me. No, se ce la fai fallo, io purtroppo non ho, io facevo un altro tipo di lavoro, quindi non è che posso andare a gestire i pianti di depurazione per i fatti miei, sono cose diverse, ma tu che sei elettricista hai la possibilità di fare impianti, di continuare a muoverti, io cerco di muovermi il più possibile, ma nell'ambito mio, insomma, delle cose dedicate a me, di casa o insomma da mamma eccetera, ma se no altre cose io non le posso fare, capito mi hai, tutto qua, ben venga, fai, non ti firma, se no è un casino veramente, perché qua ti fermi, e io qua sono già 2 anni e ho peggiorato tantissimo, in tante cose, perché non c'è più quel ritmo che c'era prima, capito? Lo so purtroppo, ma no, io ce l'ho con i clienti pronti, appena mi chiamano, ho avuto la sorella che ci ha comprato la casa, ho fatto un impianto elettrico nuovo, da zero, sfidato tutto, e quella fianco poi me devo far fare sia la figlia che la mamma, e sono in attesa, e loro comunque mi chiamano spesso e volentieri per il portone elettrico, e glielo aggiusto ogni tanto. Purtroppo chi ha installato quel portone è sorto, devo far anche notare, io l'ho aggiunto però dopo 1 o 2 mesi non chiude più, allora devo andare io a registrarlo, e vabbè, comunque. Ora sono sempre un po' in sondini, insomma, si va avanti. E io comunque, io l'età che ho, non me la sento, tu già lo sai quanti anni ho io, sì. 67. Che Dio ti senta, Claudio, grazie. E tu ne hai? No, non sembra, io avevo anche buttato nel 67, quell'età lì, e si è più grande di me, quindi, però, non ti rimà. No, guarda, io nel scorso ne ho compiuto 71, sono del 54. 71 è tanta roba, eh? 71 è tanta roba, vuol dire che hai ancora le energie che servono, io la verità, io ho calato tantissimo, non del 50% ma meno del 30%, praticamente non agio più gana, non voglio proprio fare niente, sono quelle giornate che manco esco di casa, in pigiama, mini beige, in pigiama e togo, mi permetto a fare qualcosa qua, all'interno, all'esterno, però niente, prima invece ero sempre attivo, sempre andando nei torrenti, adesso proprio non ha giocato, di fare nulla, e non ho fatto nulla. No, io guardo ogni mattina quando ho finito la sua pensione, da già 4 anni c'è la pensione, ogni mattina mi alzo alle 5, è un'abitudine, purtroppo ogni tanto non ci sono, detto, apro gli occhi, mi alzo, via. Poi è mancata l'acqua per 3 giorni addirittura, penso un po', e quindi non ce la so fare. Come è arrivata ieri notte, guarda, all'1:30, mi sono alzato, che era appoggiato a letto, guardavo la televisione, mi sono messo a lavare la roba che era sporca, avevo sporcato, e cucina. E niente, dopo di provviste, eccetera, poi stamattina presto, alle 5, mi sono messo a lavare la roba, poi me lo sono steso, il giorno attento, poi non piove. Poi sono andato a lavorare, verso le 8:30, dopo meno quarto, e praticamente la giornata è stata bellissima, da finita per 1:30. Insomma, poi stasera non sapevo cosa fare, mi sono fatto una bella schiacciata di patate, con tante mozzarella, filo di olio, oliva, l'ho fatto in forno, è stata bellissima, bella. E ci ho messo poi l'origano, ho fatto una pastella, tutte e mezza patate, con la mandolina. Guarda, io ho manticciato. sbagliato, due mi sono sbagliato, poi oggi sono pensato, passaggio domani. E cioè, sempre devo fare. E domani è un'altra giornata più impegnativa nel senso. E va bene, là, purtroppo sì, mi devo muovere, io mi sento di muovermi e nessuno mi dà l'età che ho, perché sono sempre lo stesso, come mi hai conosciuto tu, se volte mi hai visto, sono sempre uguale, non cambio nulla. E quindi tira a capare. Va bene, va bene. Vabbè, no, no, vabbè, la fisionomia, le cose non cambiano, perché se uno non si muove, cambiano purtroppo tutto il procedimento, tutto il procedimento cambia, perché inizia a avere sempre problemi. Comunque, se tu problemi non ne hai, già va bene così, non c'è problema. Ottimo per la truffa, i soldi non bastano mai, quindi più ce n'è e meglio è. Oggi purtroppo non bastano mai, andando a fare il peso e non ti ammazza mai con il cinto. Non so, non me lo dire, per carità. Ma guarda, la cosa più strana, e spesso mi succede, purtroppo è così, mi sono dimenticato di comprare questo, e ce l'ho comprato. Adesso vado là, e più ho preso carrello, ma vedi cosa, io ripeto, mi sono rifatto di nuovo il pozzetto che ho, e penso quel fondino parato, non so mai, come carne, cose, verdure, eccetera. E che è un casino, è tutto aumentato, non si capisce nulla, purtroppo. Qua tu c'è un'altra cliente che si è servito dietro, forse andò a Torino, dietro l'edicola. Un'altra cliente lì che mi ha chiamato spesso, ogni tanto già mi chiama. E vabbè, comunque, mi questo un attimino, secondo che rispondo subito e ti ripeto. Ehi, fai, fai, io sono ancora qui. Recchede. Beh, finito di cantare. E becca. Poi mi stavo facendo un chiacchiere con Tonino, ma si è al telefono. Io sto tornando adesso a portare il cane, l'ho portato un po' prima perché devo andare in farmacia e se no poi chiude. Sono andato in farmacia, ho comprato quello che dovevo comprare e poi ho portato il cane giù. E niente, adesso sono libero. Ma sei andato col cane in farmacia? Sì. Ah, già ti fanno entrare? Sì, e addirittura escono dal banco le signorine accarezzando. Vabbè, allora già, ce lo conosco, no, anche qua, lo vado io a far entrare. Far entrare i cani, far entrare tutto. Vabbè, vabbè. Guinzaglio e Museruola, però, no, non è libero. Guinzaglio e Museruola, anche se le signorine escono sempre dal banco a carezzarlo, fanno oramai le conosce, le scodizzano a tutte, perché io non mi fido molto, però loro le conosce, quindi non le fa niente. Vabbè, fidarsi è bene o fidarsi è meglio. Sempre Museruola e Guinzaglio. Io adesso, ripeto, non è che c'è più come prima Fippo, ma quando lo porto qualche volta, porto in macchina, poi dal quale arrivo per dire in città, mi metto il Guinzaglio, lo faccio scendere, Guinzaglio il mio non ne ha, perché non è un cane che morsi, che fa, però bisogna sempre stare attenti. Non si sa mai, il cane è sempre, cioè, impulsivo. È imprevedibile, sì. Secondo come lo toccano a volte, lo può prendere come una mossa sbagliata e ci si avventa, capito? La gente non si sa porre, gli tocca la testa, cosa che il cane non va toccata la testa. No, io lo dico sempre, il cane va carezzato nella schiena, non nella testa. La testa lo tocco io, il padrone, capito? Io le tiro le orecchie, la faccia, ne faccio di colori, ma sono il padrone. Gli altri non lo devono toccare in testa, il cane si accarezza nella schiena, in testa solo il padrone. Io l'ho comprato col dentifricio, ogni mattina li pulisco i denti. Quel dentifricio liquido che glielo passi nei denti, poi non c'è bisogno di sciacquare né niente. Perché aveva un po' l'alito cattivo in questo periodo, adesso ne è passato, come gli ho messo questo liquido, dai, veramente è spray, però lui spray lo teme e si allontana, allora ve lo devo mettere nelle dita e passargli lui. E a me qua. E io, Tony. No, io ho la siringa, io l'ho comprato, però potevi chiedere la siringa, capito? Siringhetta. E poi lui già ce l'ho. patologia sono in estro prima terra, che tanto dente non ha più, ne ha due ravanti, ne sono rimasti i due laterali e quelli lunghi e basta, non ne ha più, gli ha persi tutti. Avanti Tonino. Io ho questo volume salvato a telefono e quindi non so di cosa state parlando, chi comunque, cosa vuol dire? Ho preso un uovo con l'assessorante, la trasmissione che sia roba di 7-8 centimetri nero, ma non so quanto è grosso qua. Non l'avrei preso. Avarito? Cazzo via, tutte le volte che vado non ce n'è mai che... Non ce n'è mai, mi sembra che l'avevo visto, quello che c'avevi grosso, largo, quello lì. No, questo è l'ultimo che ho preso, quello non l'avevi visto. Ma almeno grosso a me. Poi ce lo sai, di una stagione non mi manca a me. Infatti, ma è uno di un agurolo che ce di manca. Ci metto quando c'è voglio un tentivi, esce mai a guerra, cosa c'è di roba in quell'armadio, per carità. Avanti già. Io ho preso da sisolante buono da coso, da Marzia, che lui è bello, addirittura dall'antenna non si è staccato mai, anche dopo che sono passati anni non si è ancora staccato, solitamente si stacca dopo che lo metti sopra il vulcanizzante, e invece questa non si stacca, proprio attacca bene. Sì, sì, quello che vende Fusale, buono, è cazzo, ma gli ha trovato in bagaglio, lo fa pagare, ma quello che prende Torino è un altro tipo di nastro, ho capito, è bello, largo, grosso lo stesso, quello è più stretto, però è molto elasticizzato quello che vende Fusale, lo puoi tirare, non si rompe, la pagata, avanti Torino. C'è una vulcanizzata che lo stiri, perché automaticamente lo stai scaldando quando lo stiri e lo faccio intorno, diventa corpo unico. Ed è buonissimo, 100.000 volte, fa anche la guarnizione, secondo i momenti, no, già va bene. Eh sì, è così. E quindi, vabbè, non ve ne altro nessuno, insomma. Franco oggi non è entrato. Poi, Manuele, vediamo se Manuele ha finito di mangiucchiare. Manuele, no, o si è dormito e fa niente. Sta sempre lavorando nella vigilanza, Manuele? Sì, sempre la vigilanza e fa 12 ore al giorno. No? Armato però. Ah, ha cambiato, non fa più quello che faceva prima. Cos'è? Con la vigilanza? No, niente, lui ha parole e quindi era prima che per me stava a vita e stava, guarda, dove era lì all'aerospin, rimaneva in piedi, rimane dentro, invece qua è a trucco reale, quindi deve sorvegliare la roba che c'è lì, a Totrini, eccetera, eccetera. E che a tutti ci ha dato, non è che sia bello, eh. Mamma mia, ragazzi, tutto giorno di notte fa. Campa, anche domenica, dipende, fa di notte e giorno, è un casino, eh. E poi, per quello che non pagano, guarda, quello che ha fermato Landini, praticamente, ci per ora, funziona si deve chiare. No, non ci voglio manco pensare, cazzo. Ma penso che sia il sistema di questo tipo di lavoro, perché tutti quelli che fanno quel tipo di lavoro lì, 5 euro ora, non c'è niente da fare, 5 euro, no, venuta la va, anche mio amico che ci ha fatto tutta l'estate a Trentino, a Rocca Giulia, dalle 10 di notte fino alle 6 del mattino, 5 euro, lo stesso, stesso trattamento, ma cagare, vai, avanti già. Perché qua c'è il contratto regionale, dove i continenti che hanno il contratto nazionale sono pagati bene, qua hanno ancora il contratto regionale che l'avrebbero dovuto passare al nazionale chissà da quanto tempo, ancora non l'hanno passato. Ma non si può dare di notte, ma non sapete cosa vuol dire a lavorare di notte? Io ho fatto i turni di notte e ho resistito per poco, ma grazie a Dio l'ho pagato, non c'è in cui ora, e l'ho pagato anche molto molto bene quando facevo i turni di notte. C'avevo un buonissimo stipendio, ma ti parlo di tanti anni fa, 98, 2000, in quegli anni lì, ma pagati veramente bene. Ma uno non può andare a travagliare di notte per 5 euro, ma di qua stiamo parlando, è proprio una truffa totale quella, cioè non non si può fare una cosa del genere, capito? Non si può. Io poi mi sono fatto mettere giornaliero, i turni di giorno facevo dalle 7 alle 2, dalle 2 alle 10, boh, il pomeriggio. Ma chi fa dalle 10 alle 6 deve essere pagato, ma pagato, baro, fai Tony. Ecco, l'ho fatto anche il turno di notte, sono capitato di notte, di pomeriggio, di mattina, quando lavoravo a Prima Santo nel 2004 sono quasi errato. Ma io prendevo già 2003 c'era la lira, perché nella torre della Maria Battista, la torre che è alta 216 metri, il gigito andava a continuo, 24 su 24, quindi facevamo i turni di 8 ore, 3 turni, capito? Più di volte, di notte, per carità, non so cosa vuol dire, venite un giorno e vi travagliamo, e quindi, più di una volta quando mollavo le 6 mattino, andavo a prendere la macchina, mi raccompagnavo, insomma, mi fermavo, boh, entravo su un V8, mi addormentavo, poi, più tardi andavo a casa, quindi ho detto, per ammazzare mio, ammazzate persone, è meglio che mi riposo, e fate più se riposate. Sì, è massacrante, però i soldi ne prendevo, ce ne diritto notturna e ce ne sono tante cose. Sto dicendo, c'è indennità notturna, c'era tantissime cose, io arrivavo anche a 3 milioni quando ero a Saras, ma stai scherzando? No, stiamo parlando degli anni che furono, avevamo con le lire eccetera, ma anche quando siamo passati in euro, che facevo i turni all'Enica, allora con la SNAM, con la SNAM Progetti, facevo i turni, stipendio era buono, era oltre i 2000 euro, capito? Era oltre i 2000 euro. Ma uscì non si può andare, a tu te ne ricordo 12 ore, fai 5 euro l'ora, ma non sai cosa vuol dire, non dimmi gli euromissimi. Lo so, ma voi vince sempre, adesso il nuovo di contratto se lo mi metto non ci vado, purtroppo è quello che il segretario della CGL, sindacalista Burra, Landini, ha firmato un contratto a 5 euro e... per tutti i vigilanti, scazzo, la mazza gliene varia, e vabbè. No, tu pensa, ero io nel 94, insomma, 2003, io stavo bene, a me non mancava niente, quindi, non è come oggi che è tutto aumentato, e quindi, guarda, me di pensione mi stavo dando 1200 euro, ma per me, io guadagno più col lavoro mio, che lo supero di 2-3 volte, pensa, anche intanto, non è fisso. Però quando mi capita mi rifaccio subito, capito? Ma ho molti clienti, è che quando vado a fare qualche cazzata, delle 100, 150 euro, 200 le prendo, capito? Se è una cazzata, se sono lavori di piatti come me, sono soldini. Quindi era diverso. Prima con la lira si stava meglio 100.000 volte. Mi hanno guadagnato di là con la lira, lascia perdere, loro ci ha disintegrato il mirollo, cazzo, non si può comprare nulla, vai al supermarket che 50 euro, ma corretto ti danno, e preso due cazzate, io ogni volta che esco, che rientro, pubblici ce l'ho con mia moglie, solo questo, quante spese? 50 euro, non hai comprato niente, cosa vuoi da me? Ed ecco, insomma, tu l'hai fatto, non c'è niente da fare, vai già, mi prendo una sigaretta. Così è. Comunque quando fai i turni di notte ti lascia sballato tutto il giorno, ti lascia questo vuoto allo stomaco. Io ne ho fatto turni di notte quando facevo servizio ambulanza e mi faceva questo effetto, sentivi tutto sballato, non capivi se eri stanco, se hai voglia di dormire, se boh, e ti lascia un bel strano. Aspetta, mi stavo planando. Ma cica, cosa hai detto già? Ho detto che quando fai i turni di notte, il giorno dopo sei tutto smallato, ti lascia strano, non riesci manco a recuperare le ore che non hai dormito, non ci riesci mai. Oh, io c'ho un carissimo amico, già conosci anche tu, l'animatore, ma quando fa le tre notti è riconoscibile, morto, cazzo, morto, e non si ferma mai, ha una grinta, una forza di fare, non è sempre vende, sempre vende, riposa pochissimo, dorme pochissimo, soprattutto quando fa i turni, perché fa tre notti, fa due mattine, due pomeriggi, capito? Ma quando fa le tre notti continue, cazzo, un cadavere, è un casino, ti sfasa tutto, è un casino. Un attimo, Tony, che guarda, mi è arrivato un messaggio. Ma io mi ricordo quando c'era sempre la lira, praticamente. Lavoravo ancora a Fiume Santo e tu pensa, mi alzavo alle 5 del mattino, alle 6 e mezzo prendiamo il pullman, a volte avevo la macchina mia. Entravo la sera verso le 6 a Sassari. Mi riposavo un po', poi a mezzanotte ripartivo ad Opera, Walter di Amunich, a portare il giornale in tutto il nord Sardegna con la macchina sua. Me l'ho fatto per 7 mesi. Allora ho detto, basta, perché mi venivano gli incubi. Mi svegliavo, devo andare a pigliare il giornale, invece era per le 10 di sera. Tu pensa un po'. Niente, l'ho fatto per 7 mesi, ho detto, quattro giorni non faccio più. E vabbè, pazienza, poi prendevo un bel stipendio, mi ha fiversato. E vabbè, purtroppo. Mi è venuto in farba, l'ho fatto ben volentieri. No, io ho durato, purtroppo non potevo, poi avevo fatto la richiesta e il mio capo aria praticamente, che era un ingegnere di Cagliari, che avevo moltissimo d'accordo, molto, ci sentiamo ancora oggi, mi teneva molto in considerazione perché avevo un incarico abbastanza delicato e quindi mi ha dato una mano. Gli avevo detto, ingegnere, io non ce la faccio più a fare di tutto, mi sto rincoglionendo, cioè sto prendendo il giorno per la notte. Guarda, non ti preoccupare, appena c'è un posto giornaliero ti cambio, ho aspettato piano piano con calma e sono finito a Troncoreale, poi sono finito alla Monte Agnese, all'Albero e poi gli ultimi anni li ho fatti in depurazione come tecnico di impianto, conduttore di impianto, e quindi avevo tutta la zona di Valle d'Oria, Santa Maria Colinas eccetera. E dico che stavo benissimo perché ero sempre in giro in macchina, non ero mai fermo. È brutto anche chiuderti, capito? Io mi vedevo chiuso, casi quattro mura, sempre si giravo all'impianto perché era abbastanza grande, uscivo, facevo, ma non è come stare in giro, vedere gente, eccetera, capito? No. Tu assolutamente. Vai Gianni. Mi riferisco a quello che ho detto poco fa, quella persona che è amico tuo che fa la guardia giurata, se è la stessa che stiamo dicendo, da noi quando è venuto il negozio ha piazzato gli allarmi, lui piazzava, faceva la cosa tecnica. Oh, già hai capito chi è, non è, devo stare a dire il nome, già hai capito chi è, che ogni tanto ci fa qualche riparazione e rompiamo le palle. Sì, ho capito. Quello che aveva il negozio prima, no? Ah, tu FF! Ah, vabbè, ma lui non è guardia giurata. No, ma lui fa i turni, lui a Fiume Santo fa i turni. Fa i turni all'Ener, è un tecnico dell'Ener, fa i turni. E quando c'ha le tre notti, che noi ci vediamo spesso, anche domani me le devo vedere, anche se all'ascolto lo saluto. Anche domani ci dobbiamo vedere. E quando fa le tre notti si vede che c'è la franchezza, c'è, perché sono tre notti che stavano tu ai balle. No, io stavo dicendo Archimede, pensavo che si sia alludendo a lui. Perché lui fa, sì, è guardia giurata, però fa gli impianti, capito? Si interessa della parte tecnica, perché queste guardie giurate adesso fanno anche gli impianti di allarme. Sì, e lui è con la Mondial Pool, lui è assistente, si occupa dei punti radio della Mondial Pool, come si dice? Lui è in informatica, no? Quindi capito, lui è bravo in quelle cose lì. Io lo so, è da tanto che non lo vedo mi ricordo, vabbè, ma ci vediamo. No, da me era venuto a fare quell'impianto di allarme, prima ce l'aveva fatto Caccamo e poi nell'altro negozio ce l'avevano fatto loro. Sì, perché loro poi codificano per la vigilanza, capito, hanno tutto un sistema particolare. Vai Tony. A me mi è capitato San Giovanni, c'è una persona, fabbro, per dire, che amico mio, e questo mi stava chiedendo, ah, l'elettricista, sì, ascolti, ma il sistema all'arma ne fa, certo che ne faccio. Guarda, io vorrei una telecamera qua, una telecamera qua, scusi, ma e qui non c'è niente, bisogna fare una canaletta interna. No, assolutamente, non c'è fare le tracce da fare. Dice, cosa ne prenderebbe lì? Se li faccio trovare tutto pronto, trovo al minimo qua, per quanto è grande la villa, ci vuole almeno 3.000 euro di mano d'opera. E io ci penso, ma se è succato, dice, allora, non devo fare, non te ne posso. Ah, ce la fa, cazzo. Abbiamo fatto delle scuole, lui si deve andare, poi c'è la cittadina, è un lavoro che è molto complicato, ma è bello, a me piace moltissimo. Abbiamo fatto una decina nelle scuole, penso un po'. E vabbè, se mi capita, purtroppo mi sto capitando solo impianti elettrici, una volta l'impianto industriale 80, va bene, perfetto, costa un po' di più comunque. La procedura è sempre quella più o meno. Allora. È così, è così. Il sistema d'allarme è solvato nei bagami, è tipo forensi. Cosa stavo dicendo? Ma la ne approfitto, la luce di emergenza, Tony, che io ce l'ho, l'avevo sempre collegata, la devo attaccare al salvavita, quando scatta il salvavita si accende lui. No, assolutamente. Allora, sappi bene, dove c'è la scatola di derivazione, non so se l'avrai in basso o in alto, la linea dice aperta, sarebbe delle luci e degli interruttori praticamente, la linea che arriva da salvavita in 10 ampere, lì va collegato in diretta, capito? Poi, automatico, se manca la luce, là c'è la batteria, intanto va sempre in carica la batteria, quando manca la luce si accende lì. È una cazzata, io l'ho messo anche qua in camionetto, perché l'ho comprato io a parte, perché qua non c'è niente, ne ho una in cucina e una qua in camera. Nel salone la voglio mettere, ma nel salone la fuori, sì, ho visto dove c'è una scatola in alto. Sì, all'entrata, lì, allora mi collego lì. Ma col mammut va bene, o devo metterle dei cosi isolati particolari? No, che il mammut non si usa più, dai, i cappuccetti isolati ci vanno. Dentro la scatola ho collegato i fili di fase neutro e i due fili vanno in diretta, giustamente dentro la cosa, la lampada deve affrontare e mettere i fili. LN linea è neutro, non c'è sbagliare, capito? Poi c'è quella che è differente, puoi mettere o fase a destra e neutro a sinistra, oppure viceversa non cambia niente. Ma quello va sempre in diretta, ti dà la spia verde e luminosa accesa. Quando manca la luce si accende e si spegne quella linea verde, quella spia verde. Automaticamente quando poi scarica ritorna la luce, quella lì è rossa, poi diventa verde quando carica la batteria. Esatto. Vabbè, volevo dire mammuti, ma ce li ho, sì, quei cappuccetti isolanti, sì, che li ho visti anche, ci sono anche nel quadro elettrico qua a casa. Bene, ok, pensavo andasse attaccato direttamente, invece no. Quindi faccio due forellini, attacco prima la cosa, vicino alla presa, alla scatola di derivazione, entro i fili dentro e poi li chiudo. Bene, ok, grazie. Avanti già. Ma vabbè, Luca, che fabbrica tutto da buio. Il cazzo dei bovini. Non è che sono elettricista, ma sono due fili, ma ero convinto che andasse collegato direttamente lì al quadretto, invece la Tonino è che collegata lì, quindi va collegata lì. Sì, gli faccio due forellini, no, è anche bellina, è bianca, si vede poco, insomma, non è che sia così, ma è giusto per quando manca la luce, perché qua d'inverno manca spesso la luce, manca spesso, capito? E allora ne metto una fuori, che c'è anche fuori la scatola, in alto sotto la veranda, lì dove c'è la luce insomma dalla veranda, lì ne metto una lì, in modo che si illumini, rimanga illuminato il giardino, perché sai, al buio qua non fa già, non è puoi stare al buio, qua la notte è tutto illuminato, non è, insomma, così. Se non vedi, poi la casa è bassa, quindi la recinzione già è alta, uno può saltare tranquillamente, entrare dentro, invece quando è tutto illuminato, sia fuori, a parte il fatto come ti avvicini al cancello, si accendono le luci, che ci sono quelle luci a fotocellula, quindi già chi vi vede la luce è tassuti, in più è tutto illuminato dentro, devi stare sempre in campana, capito? Dai, è come Tonino è tutto acceso lì la notte, no? Allora, Manuele, ma è tutto così, la roba che e tu pensa che ne ho messo anche altre lampade, quindi adesso ho trovato 500 watt di feriti solari, pensa un po', da 200 a 100 watt, a parte quelle forze intera di pianta che avevo fatto, quindi adesso è più illuminato. Ma attento, non ti conviene metterti l'interruttore crepuscolare, poi diventa un po' buio, puff, si accende lui, e la mattina la bella già, tac, si spegne. No, io al giardino non c'ho quelli a conto di luce, quindi a cosa si chiama? Pannello solare, quindi ce ne sono due, quindi adesso com'è ancora non si è acceso, non so perché, no, è già acceso, sì, sto andando fuori, si è già acceso, quello lì, uno un po' più grande e un po' più piccolo, capito? Uno un po' più grande e un po' più piccolo. Però sono a pannelli solari, no, quello della veranda sotto, quello è luce di casa, quello accendo, c'è una lampada di quella a basso consumo a LED e rimane tutta la notte accesa. Ah, io ho messo dei tubi vetroligina, più tubi ferro messi dentro, sono altri 3.000, 3.000 e mezzo, e ci ho messo tutti questi pannelli solari, capito? Col faro, e si accende, tu pensa, mi si accende le brunine e rimangono accesi fino a domani mattina. Fin quando non esce, diciamo, la luce del sole, loro sempre accesi, e da me intanto è tutto gratis, energia solare, no, ma conviene, io quelle voci lì che sono tutte lampade a LED, quelle le accendo qualche volta che mi serve più luce, allora capito che sono bassi, ma il resto, proprio da usi, certo se mancava la luce a me, un elettricista che era luce mi va a restare un gran. Cazzo, ci rimane un giù due, allora ci mette un bezzolaggio. No, ognuno ha questo sistema qua, anche i miei. Adesso l'altro giorno ho visto, si è spento verso le 7:15, 6:30, appena inizia a fare luce si spegne. Questi ce li abbiamo tutti. L'unica che abbiamo condominiale è quella del cancello d'ingresso lato strada. Quella si accende, c'è una come si chiama? Quello che hai detto tu, capito? Quello è a orario, quello si accende a orario per vedere l'ingresso del cancello e si spegne a orario, capito? Quello è regolato così. Quello l'hanno messo quando hanno fatto la strada. Vai Gianni. E anche a Cisolo ce l'avevamo così, con la fotocellula che si accendeva. Quando passavi si accendeva, poi ti allontanavi si spegneva. E sono comodi perché non consumano molta energia. Non era col pannello solare, però funzionava così. Ok, allora senz'altro ci avrai un timer là, che va programmato, per esempio si accende alle ore, che ne so, d'estate alle ore 20:21 e si spegne alle 17:05:30 alle 6 del mattino. Oppure d'inverno, diversamente, si accende alle 17 di sera e si spegne alle 7 del mattino. Quello è un timer, mentre il crepuscolare è tutto diverso. Quello va sotto in base alla luce del sole e quando cala. No, a timer, Tony, a timer. A timer perché il mio io non ci vedo mai, ma con i PC. Invece c'è il mio vicino, quando cambia l'orario, lui va e lo cambia, capito? Cambia l'orario. Adesso fra un po' le cambia l'orario. E io già che le sette è ancora buio qua, o là. Cosa? Che le sette è ancora buio. Però quando cambia l'orario, quello da estivo e invernale, capito? Lui va e lo c'ha quelle lamelline blu, no? Nell'orologio e lo cambia. Ebbene, deve cambiare per forza, c'è un timer va regolato, cellulare, mentre invece con il crepuscolare non devi regolare niente, capito? Quindi quello lo metti e basta. Diventa buia, si accende, diventa luce e si spegne, insomma. Esatto. E vabbè. Abbiamo fatto un po' di gaggati, lascia aperto. C'è sempre da fare. Vabbè, cosa metti di chi? Io le so, cazzo le 8 sono. Ui. Raga, io vi lascio. Vado a vedere il mio TG e poi si cena. Una chiacchierata ce l'abbiamo fatta. Vi saluto e me ne vado. Ciao Gianni, ciao Tonino e tutti quelli che sono in agguato K. E allora anche io vado, dai, ciao Claudio, ciao a tutti i nostri amici, anche gli ascoltoni. Buona serata, ciao. Ciao Claudio, ciao, che guardo la sonda. Dici, mi guardo, ci sentiamo, state bene. Ciao a tutti. Buonasera. Ascoltone. Ok. Non ho capito chi sei. Un ascoltone. E allora ascolta. Adesso però non ascolti più perché non c'è più nessuno. Ciao. Arrivederci.